30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Apre i battenti a Shanghai l'Expo 2010. Dal 1 maggio alla fine di ottobre il mondo si mette in mostra lungo i padiglioni cresciuti sulle sponde dello Hangpo. Per la Cina si tratta di sottolineare lo straordinario percorso compiuto nel corso degli ultimi 20 anni, con un evento che replica e magari supera il fasto e la spettacolarità dei giochi olimpici. 70 milioni di visitatori è quanto le autorità si attendono nella metropoli che nemmeno 20 anni fa vide emergere le linee della trasformazione economica cinese indicate da Deng Xiaoping, quelle che avrebbero cambiato per sempre il grande paese. Buonasera e benvenuti all'appuntamento di 30 minuti in cronaca. Dopo 6 anni di lavoro è dunque aperto l'Expo 2010 di Shanghai. I suoni che sentite in sottofondo sono proprio quelli originali della grande manifestazione d'apertura. E proprio da oggi, da sabato 1 maggio, giorno in cui andiamo in onda, e da oggi alla fine di ottobre, la capitale economica cinese si mette dunque in mostra in quello che appare una sorta di sigillo sulla nuova grande marcia compiuta dalla Cina in questi ultimi 20 anni. Una città migliore per una vita migliore, il tema scelto dalle autorità, un tema molto ambizioso. In tutto, il tutto in una megalopoli di 18 milioni di abitanti che raggiungiamo subito collegandoci con Saro Capozzo, l'imprenditore italiano da 20 anni in Cina, amico di Radio 24, shanghaiese di fatto d'adozione, acquisito per scelte professionali e personali. Allora Saro, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti. Allora, qual è l'atmosfera? Noi abbiamo visto e sicuramente lo vedremo nelle prossime ore, nei telegiornali e attraverso la televisione, le immagini ancora una volta della Cina in festa, di una città avvolta dalle luci in una notte assolutamente particolare. Ecco, innanzitutto dove ti trovi? In questo momento mi trovo in una sala di un ristorante e da qui posso vedere la finestra, vedo il CTND, è una zona molto speciale a Shanghai, nel centro di Shanghai, che richiama un po' la vecchia Cina degli anni 30, ristrutturata, ed è un'attrazione proprio turistica a Shanghai, quindi piena di migliaia di persone, naso in alto, a guardare i grandi schermi che danno appunto l'evento, quindi un grande momento, una città illuminata, una città molto viva, e in attesa appunto che si svolga l'evento come sta avvenendo. Ecco, qual è l'atmosfera? Naturalmente l'Expo è un grande evento, l'attesa è lunga, la costruzione è complessa, poi affronteremo questi temi, ma diciamo il polso di Shanghai qual è? Beh, il polso di Shanghai è in fibrillazione, ecco, perché la paura di fare brutta figura, ma io persino ho trovato i tassisti a studiare l'inglese, no? Pronti per i turisti. Cioè, mentre ero in attesa a studiare l'inglese, cioè con diligenza, come sono loro, no? È una città che si è preparata, ha fatto un make-up, è una città che oggi iniziano 6 mesi di percorso, che sarà appunto una grande, come si dice, una grande vetrina, una grande occasione per la Cina per mostrare quello che è diventata. Ecco, i cinesi in questi anni ci hanno abituati alle cerimonie grandiose. Negli ultimi tempi basta ricordare come si sono allenati con i giochi olimpici del 2008 e non hanno scherzato, a dire la verità, nemmeno nell'ottobre scorso con la grande parata per la celebrazione della Repubblica Popolare. I cinesi stessi amano essere stupiti. Ecco, ci sono delle anticipazioni, delle voci su che cosa potrebbe essere, diciamo, il piatto forte di questa grande cerimonia, che sicuramente è fatta di canti, di popoli, di bambini e di balli e di danze? Da poco è andato in onda anche Bocelli, ecco, quindi abbiamo avuto anche un pizzico d'Italia, diciamo, nella cerimonia. Diciamo che non si è saputo molto in anticipo di quello che potesse essere la cerimonia, è stato un po' un mistero. Ci sono stati dei grandi preparativi, si sono appunto approntati anche delle prove per i fuochi d'artificio, la Cina è molto famosa in questo, no? E hanno fatto anche delle prove con le luci partendo dal fiume, le grandi barche che si sono appunto posizionate di fronte allo skyline di Shanghai che hanno illuminato i grattacieli. Quindi diciamo c'è stata una grande preparazione, ecco, però l'evento in se stesso è una sorpresa, lo stiamo scoprendo, no, piano piano. Sono stati anche sconcessi dei giorni di ferie in aggiuntivi, no, per i cittadini di Shanghai, appunto per permettere di svuotare un po' le città, lasciare le strade e facilitare il traffico. Infatti oggi fino a martedì 4 maggio è tutto fermo, molte aziende sono chiuse, le scuole sono chiuse e quindi siamo praticamente in un momento particolare. Quello che aiuta adesso è che c'è un bel tempo, sembra una giornata primaverile molto bella dopo tanti giorni di freddo e di pioggia. Ecco Saro, che cosa vuol dire Expo per una città che comunque è da 20 anni che si trasforma, che cambia, incide realmente nel tessuto, nell'immagine e in che modo di questa città sul fiume Huangpu, che come hai ricordato è un po', diciamo, l'arteria principale anche degli eventi? Sì, infatti l'Expo si svolge su questo fiume, no? È diviso in due parti l'Expo, una parte quella che sta a Pussy, diciamo a ovest, più piccola, che è dedicata un po' alle aziende, e poi c'è una parte verso appunto Pudong, verso est, che è quella che ha i padiglioni più grandi. Il nostro padiglione è proprio, si affaccia sul fiume, e addirittura il fiume è stato anche bonificato, sembra, da quello che si è sentito, per poter appunto essere pronti e presentare il meglio. E l'Expo è una vetrina, come dicevo, no? una vetrina che dove 100 paesi che sono intervenuti hanno l'occasione di mostrare il meglio di sé, ma quello che conta è un po' la Cina che ha mostrato e dimostrerà, secondo me, la capacità organizzativa e di sostenere un tipo di evento come questo ai massimi livelli. Ancora una volta tu dici la Cina effettivamente, come dire, non avrebbe bisogno di dimostrare di saper organizzare grandi eventi, ma oggi vuol fare ancora forse un passo in avanti, quasi a rappresentare la sua capacità di guidare o co-guidare il mondo dei grandi? Certo, è una specie di, se con le Olimpiadi la Cina ha fatto l'esame di maturità, con questo Expo sta facendo un primo esame universitario, ecco, ma lo sta portando avanti molto bene. Tenete conto che ha anche mostrato molta maturità per poter permettere alla maggior parte dei paesi, la presenza della maggior parte dei paesi, addirittura ha investito 100 milioni di euro nel padiglioni misti per l'Africa, cioè molti paesi africani che non avevano i soldi per poter venire a questo evento sono stati sponsorizzati da aziende cinesi e anche dallo Stato cinese. Una curiosità, lo stand americano fino a un anno fa non era sicuro che potesse lo stand, cioè il padiglione americano, che potesse esserci, perché appunto non erano stati stanziati soldi dal congresso. Allora è stata un'azienda cinese a sponsorizzarlo e a permettere che appunto la costruzione del padiglione americano, e questa è una cosa incredibile, ecco, c'è i cinesi che hanno finanziato gli americani per poter essere presenti qui. Effettivamente gli Stati Uniti hanno una politica rispetto agli Expo per una questione appunto di finanziamenti, per cui loro normalmente non partecipano in quanto stati a questi eventi, e dunque c'è anche questo elemento. Trovo estremamente interessante come ci racconti di questa parte anche rispetto agli stati africani, di fatto questa estensione della politica estera di Pechino, così attenta in questi anni, l'abbiamo raccontato, lo racconteremo, alle materie prime che vengono soprattutto da quei paesi. Ma torniamo alla città. Shanghai, si può ben dire, nel corso degli ultimi anni è una città che si è trasformata più volte. Tu che la vivi da ormai quasi un ventennio, più volte ci hai raccontato anche lo stupore, pensando a quello che era e a quello che è. Ecco, in che modo l'Expo contribuisce a questo nuovo passo in avanti? Come cambia, magari in maniera forse definitiva, la Shanghai che questa sera abbiamo sotto gli occhi? Certo, è un'occasione anche per fare un upgrade della città, una città che cambiava già negli anni 90 faccia ogni 3 anni e ha dimostrato la capacità di sorprendere anche ora. Se pensate che nel 2005 c'erano solo 3 linee metropolitane, oggi ce ne sono 11 e se ne stanno completando altre per arrivare appunto nel 2013 per averne 18. Quindi molte aree periferiche, così, che prima erano irraggiungibili, appunto molto scomode, sono adesso raggiunte dalla metropolitana. Quindi l'Expo è servita anche ad accelerare questo processo. Pensate, 18 linee metropolitane, ce ne stavano solo 3 nel 2005, quindi diciamo questa è la capacità proprio organizzativa cinese. È stato aperto da poco il nuovo aeroporto di Hongqiao, c'è il nuovo terminale che è praticamente l'aeroporto interno, se, no, per darvi un'idea è il doppio della Malpensa come dimensioni, ecco, quindi ed è stato fatto in solo un anno e mezzo di lavoro. Quindi è una tenendo conto appunto che la maggior parte dei visitatori verranno dalla Cina, non stessa, dalla Cina interna, e solo il 3% della popolazione saranno appunto visitatori esterni, cioè turisti stranieri, e questo fa capire come si sta preparando anche per poter accogliere i propri connazionali. E io vivo qui nella zona francese, no? Quartiere francese, che nel 1990, quando io appunto ho messo piede in Cina per la prima volta, era in periferia rispetto il centro della città attuale, cioè di quel momento, no? È un po' come dire, ero a Opera, a sud di Milano, rispetto per i milanesi. Ecco, ora siamo perfettamente il centro di Shanghai. Ecco, il centro di Shanghai, ecco, per farvi capire che cosa sta accadendo in questo paese in Cina, non è solo Shanghai. Ecco, certo, una grande corsa di cui Shanghai è da sempre in qualche modo l'emblema. Una città migliore, una vita migliore. Questa è anche una parte della sfida e qui diventa forse più complesso, perché a crescere la Cina ha sicuramente dimostrato di essere capace in maniera impressionante a migliorare la qualità della vita. Forse deve compiere ancora, come dire, non forse, deve compiere sicuramente dei passi in avanti. 30 minuti in cronaca. Una città migliore per una vita migliore. Questo è il tema di questo Expo 2010 che apre a Shanghai e di cui parliamo questa sera in diretta con la capitale economica cinese. Con noi Saro Capozzoli, che ringraziamo per essere appunto con noi e raccontare anche questo momento sicuramente storico, con l'attenzione di chi appunto in Cina vive da 20 anni. Vivere meglio la megalopoli, insomma, è possibile in questa enorme corsa alla crescita? Questo tentativo, a tuo avviso, è uno slogan oppure le autorità cinesi ci stanno, come dire, provando seriamente? Diciamo che stanno attuando quello che è la realtà. Nel senso, è un tema interessante questo, proprio nel momento in cui la popolazione urbana del mondo ha superato quella che vive nelle campagne, e quindi è fondamentale poter studiare, lavorare su il miglioramento delle megalopoli, ecco, non si possono pensare più a città come Città del Messico, che sono delle megalopoli cresciute in una maniera disomogenea e non integrata diciamo con la popolazione, con le esigenze dell'uomo. Ecco, qui stanno cercando di creare delle megalopoli a misura d'uomo. Si stanno progettando anche grattacieli città. Io ho visto dei progetti interessanti, uno di questi è anche approvato, un grattacielo di un architetto spagnolo che ha proposto appunto 1200 metri di altezza, un grattacielo enorme con 100.000 persone dentro, completamente autosufficiente, cioè sia dal punto di vista alimentare che energetico. Quindi si stanno facendo un po' di prove, diciamo, con questo Expo, prove di tecniche di futuro, no? E per quanto riguarda l'attenzione della Cina rispetto all'ambiente, all'energia, c'è sempre più sensibilità. Tenete conto che la Cina è un paese che ha raggiunto nel 2010 i suoi obiettivi del 2020 per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili, quindi si sta dando da fare, e questo, diciamo, evento potrà sicuramente accelerare il processo anche nel mondo. Ecco, sicuramente il tema anche, diciamo, dell'ambiente, della compatibilità di questi enormi agglomerati urbani è centrale, e l'Expo serve anche questo, serve anche a proiettare nel futuro, insomma, le idee, i progetti, le immagini. Ma torniamo un momento, Saro, su quello che è stata la grande preparazione, insomma, grandi lavori, ovviamente grandi cantieri, anche momenti di tensione e preoccupazione. È stato un lavoro di parecchi anni e non sempre le cose sono andate lisce. Anche degli intoppi, come ad esempio 3 anni fa l'intera giunta di Shanghai è stata anche è andata a finire in galera per qualche problema, diciamo, inerenti a problemi interni al, diciamo, al partito, ma anche per quanto riguarda la corruzione. Quindi c'è stato un ritardo di un anno rispetto, cioè loro prevedevano di finire un anno prima, ecco, quindi invece si è arrivati quasi sul fil di lana, proprio giusto in tempo. Ecco, non ci sono stati grossi problemi dal punto di vista di aree dismesse, diciamo, o quartieri residenziali abbattuti come normalmente succede in Cina, perché sono state semplicemente eliminate delle zone industriali che erano al centro della città. Quindi è un'occasione, questa è stata un'occasione anche per eliminarle e per poter poi qualificare. Ci sono stati, appunto, con la CNN ha parlato anche di recente, no, di 7.000 detenuti o comunque di ex detenuti e comunque di persone che sono stati arrestate con i precedenti, proprio per evitare di averle per le strade, per poter, appunto, ridurre il più possibile, che è già abbastanza basso, quindi a Shanghai il problema della criminalità. Quindi ci sono state delle azioni preventive, arresti preventivi, no? Ecco, sul fronte della sicurezza, dicevi, arresti preventivi, controllo, naturalmente questo fa parte un po', diciamo, dell'organizzazione di questi grandi eventi. La sensazione è quella delle autorità cinesi, diciamo, vista dall'interno della grande città, di una preoccupazione per la sicurezza e naturalmente per le possibili azioni contrarie in un evento di questo tipo? Sì, azioni contrarie non penso, più che altro proprio una questione di eliminare la piccola criminalità, perché è quella che può dar fastidio. Non si guarda un'immagine di una città dove ci siano borseggiatori, eccetera, e sono stati, diciamo, messi, diciamo, a riposo per almeno 6 mesi. Questo è quello che è successo. Certo, ci sono state anche, comunque, ho detto che non sono state toccate delle aree urbane, hanno comunque dovuto spostare circa 17.000 cittadini, ecco, per fare un posto all'Expo, però sono stati spostati in aree migliori, più, diciamo, attrezzate rispetto a quelle che erano dove vivevano prima, perché molti vivevano vicino alla zona industriale, nel centro della città, dentro delle baracche, ecco, quindi c'è stata una riqualificazione. Quindi problemi che sono stati, diciamo, risolti alla cinese con molto pragmatismo e decisionismo. Ecco Saro, siamo quasi in conclusione. So che la Cina e Shanghai in particolare ha lavorato molto sul concetto di, diciamo, formare gli abitanti a essere degli ottimi padroni di casa, visto che anche tu sei un shanghaiese, mi chiedo che cosa significa questo, in che modo viene passato questo messaggio di accoglienza per la popolazione, lo ricordo, di molti milioni di abitanti rispetto a chi arriverà. È partita una campagna, diciamo, di formazione, di buona educazione, ecco, perché tenete conto che qui ci sono delle cose più o meno simpatiche, ecco, a volte molto spesso capita in estate, nel periodo estivo, di trovare gente in pigiama che giri per Shanghai, ecco, c'è proprio questa tradizione che dopo cena si va a prendere l'aria, si va a sedere sul marciapiede in pigiama, no? Ecco, questo è stato, diciamo, vietato e sarà, appunto, tenuto sotto controllo, anche perché è un qualcosa che fa vergognare un po' i governanti locali, no? Però è un qualcosa che fa parte del loro modo di essere. Ci sono state grandi campagne per evitare, appunto, di sputare a terra, di sporcare a terra, ecco, addirittura ci saranno poi per ogni porta che si aprirà delle metropolitane, dei vari treni, ci sarà una persona che inviterà appunto i passeggeri ad aspettare, appunto, che i passeggeri che sono sul treno a scendere prima di salire. Infatti questa è una cosa molto comune, che quando si va in metropolitana ci si scontra normalmente con chi vuole scendere quando non si vuole salire. Quindi si sono un po' messi, hanno capito, conoscono benissimo i loro difetti, i loro problemi, si sono predisposti per, appunto, risolverli o migliorare la situazione. Insomma, un grande lavoro. Io ti ringrazio per averci raccontato, diciamo, questi primi momenti della grande Expo 2010, preludio naturalmente per noi che tra l'altro trasmettiamo da Milano, di un Expo che è quello del 2015. Prima di salutarti, in una battuta, secondo te che cos'è la lezione assolutamente da non perdere per Expo 2005 che la Cina finora ci insegna? Sì, per l'Expo 2015 A Milano dovremmo imparare a programmare e a migliorare la nostra città, ecco, di non pensare solo appunto al momento allo spot, cioè l'Expo si fanno degli interventi solo per quell'evento, bisogna imparare a programmare cosa può essere una città dopo l'Expo, cioè non è solo per l'evento ma anche per il futuro, quindi per evitando appunto di fare delle cattedrali nel deserto, cioè fare un Expo ben organizzato ma senza avere le strade metropolitane, i collegamenti ben fatti al resto della città può diventare a parte impraticabile perché diventerà un problema per i visitatori arrivarci, però è un qualcosa che poi è un'eredità che resta alla città. Insomma, cavalcare nel senso migliore del termine l'Expo per una città che cambia, per una città che si proietta sul futuro. Grazie a Saro Capozzo, lo ricordiamo in diretta da Shanghai, che ci introduce in qualche modo in queste ore di esordio di questa grande manifestazione. Ecco, prima di lasciarci questa sera voglio però portarvi un'anticipazione per la prossima settimana. Passione africana. Prima di lasciarci un'anticipazione per le prossime settimane. 30 minuti in cronaca in qualche modo si sposta in Africa per 5 settimane, diventa Passione Africana, un racconto on the road attraverso il continente che tra poco più di un mese ospiterà per la prima volta nella storia la fase finale dei mondiali. Con Roberto Antonini di Radio Svizzera Italiana abbiamo attraversato l'Africa occidentale, dalla Costa d'Avorio al Camerun, attraverso Ghana e Nigeria, dallo Zimbabwe al Kenya, toccando il Congo e il Ruanda, per cercare di capire dove va il continente in questo anno che è senz'altro di calcio, ma che è anche e soprattutto quello delle celebrazioni dei 50 anni delle indipendenze nazionali. Insomma, vi ricordo e vi invito a raggiungerci, noi vi aspettiamo con le anticipazioni di Passione Africana dal lunedì al venerdì dopo il GR delle 13 e delle 21 e negli approfondimenti di mezz'ora del fine settimana, sabato alle 19.30, domenica alle 22.30 e naturalmente come sempre tutto su www.radio24.it. E con questo siamo davvero arrivati alla conclusione. Non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia e augurare a tutti voi un ottimo fine settimana.